letto sfatto mi sono alzato. Troppo caldo, non riesco a dormire. Mi vesto in fretta, fumo, mi va di uscire. Fuori la fa è ancora cocente. Il silenzio si fa denso ed avvolgente. Guardo l'ora con lo sguardo distratto. Ho l'incontro con Lucifero il gatto. Strani incontri tu potrai fare, se a mezzanotte ti fai trovare. All'incrocio di queste vie, salva la tua anima, io penso alle mie. Magro e dal viso coperto, si muove zoppica in modo strano. Cazzo, questo non ha niente, proprio niente di umano. Strani incontri tu potrai fare, se a mezzanotte ti fai trovare. All'incrocio di queste vie, salva la tua anima, io penso alle mie. Apro gli occhi, mi trovo sdraiato sul mio letto, fatto un sogno agitato. Mi alzo, fumo, mi fa male la testa. Da davanzale guardo dalla finestra. Una figura prende forma pian piano e un gatto nero gli miagola in mano. Lancio un urlo, questa è un'ossessione. C'è l'uomo alto e magro sotto il mio lampione. Potrai fare, se a mezzanotte ti fai trovare. All'incrocio di queste vie, salva la tua anima, io penso alle mie. Strani incontri tu potrai fare, se a mezzanotte ti fai trovare. Ti fai trovare all'incrocio di queste vie, salva la tua anima, io penso alle mie.